Ben ritrovati in questo finire di novembre sulle non frequenti di Radio ZM. Questa è Colonna Sonora, prove di sostenibilità. Ebbene sì, i più attenti di voi avranno notato un nuovo claim, il che non è che la prima delle infinite novità che Radio ZM vi proporrà per il nuovo anno. Aspettando il 2022, nel frattempo tutti i nostri ascoltatori dotati di un dispositivo Android vi segnaliamo che la nostra app è scaricabile dal Google Play Store e ovviamente dal sito di ZAM, da cui potete scaricare il pacchetto APK senza dover passare da Google stesso. Grazie al nostro team informatico per lo sviluppo. Inutile dirvi che dall'app potrete avere facile accesso ai live, ai podcast e ai fighissimi contenuti della redazione di Radio ZM. Per continuare con le novità ringraziamo Mattia di Salad Days, la trasmissione rassegna che ogni settimana propone il meglio della musica in uscita, che da oggi segue anche l'aspetto musicale di questa trasmissione. Ne approfittiamo per salutare Franco e augurarle in bocca al lupo per la sua nuova esperienza in quella di Bologna. Grazie poi a supermed.it per il progetto grafico con il quale vi aggiorniamo dai nostri contenuti via Instagram e Telegram. Una conferma invece, un pilastro inamovibile, Paco, oggi qui con me in redazione ad accogliere Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Ciao a tutti, ma soprattutto ciao Enrico, benvenuto, buonasera. Ciao a voi, ciao a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Enrico, guarda, comincio io con una domanda che mi sono fatto negli ultimi giorni. Ma dimmi una cosa, cosa che fa il presidente o il vicepresidente di Sea Shepherd Italia? È una bellissima domanda. In realtà, essendo noi tutti volontari di Sea Shepherd, per noi la condizione fondamentale per essere volontari è quella dell'azione diretta, e quindi in realtà cerchiamo di fare più action possibile e cercare di lavorare il più possibile su quella che sono la nostra missione di protezione, conservazione e difesa del mare. Nel mio caso, siccome Sea Shepherd Italia è nata nel 2010, quindi è da una decina d'anni, una dozzina d'anni ormai, nei primi anni mi sono occupato proprio della costruzione, come una startup di un'azienda, mi sono occupato della parte organizzativa di Sea Shepherd Italia, quindi di dare un luogo, degli standard, dei protocolli, diciamo la creazione dei dipartimenti, quindi del lavoro che poi fanno i volontari sul territorio italiano. E poi adesso invece che l'associazione è un po' più ormai cresciuta e ci sono volontari sufficienti, sono riuscito a sfilarmi un po' da questa attività un po' di ufficio e finalmente riesco ad andare un po' più spesso in mare, quindi fare attività diretta, che vuol dire magari mettere le zampe nell'acqua. Quindi sei anche tu un navigatore? Marinaio. Assolutamente sì. Un pirata. Sì. Siamo tutti pirati. Io in realtà ho seguito tutto un percorso personale che mi ha portato a fare una serie di esperienze in mare che adesso mi stanno tornando utile, quindi a bordo delle nostre navi faccio il sottufficiale. Ma se io volessi imbarcarmi? Ah, è molto semplice. Devi innanzitutto parlare inglese. Ok, adesso spero è andata. Perfetto. Perché a bordo delle nostre navi la popolazione arriva da tutte le nazionalità del mondo e quindi la lingua che abbiamo scelto per tutte le comunicazioni è ovviamente l'inglese. E poi normalmente all'interno di una nave ci sono tantissime attività da svolgere, quindi in base alle tue capacità, in base alla tua attitudine, ti viene attribuito, se è necessario, un ruolo, e quindi se abbiamo bisogno di quel ruolo tu compili un form di richiesta e tu vieni chiamato, contattato e poi sali a bordo a fare campagne. Posso mettermi molto radio, semplice. Alla radio di Sea Shepherd? Ah sì, però normalmente alla radio di Sea Shepherd ci stanno i sottufficiali, quindi deve essere in grado di governare una nave o una barca, non so. Okay. Adesso abbiamo anche una figura molto importante sulle navi, che è proprio il responsabile com di comunicazioni, che è quello che si occupa di tutti gli impianti tecnologici che servono per comunicare, quindi da satellitari a tutta la parte di impianti radio di comunicazione interna alla nave e via dicendo, quindi radar, cioè tutta la parte di comunicazione, quindi sì, potresti fare anche proprio il responsabile com. E mi sa che mi verrebbe meglio fare il fotografo, se dovesse servirvi un fotografo. Vabbè, ovviamente i media a bordo sono le nostre armi più principali, quindi c'è sempre posto per fotografi e cineoperatori. Fantastico. Allora, io volevo comunicare a tutti gli ascoltatori, come al solito, che se vogliono interagire con noi e mandarci domande per ovviamente Enrico, su Telegram radio_zam_chat per interagire con la diretta. Enrico, se posso, un brano per avvicinarci a noi e poi entriamo nel vivo. Assolutamente sì, buona musica. Partiamo con la musica? Vai. Io non dico il titolo, lo ascoltiamo, lo dico dopo. Vediamo, se è piaciuto, se non è piaciuto non lo dico. Va bene. Rieccoci in diretta, abbiamo già le prime domande. Fammi dire però chi erano. Ah, scusami, hai ragione. Un bel pezzo effettivamente. Tony Hawk of Ghana, I Hate My Village, che è una band effettivamente interessante. C'è un po' di tutto lì dentro, Calibro 35, Bud Spencer Blues Explosion, sono messi tutti insieme, anche un po' di Verdena, e hanno fatto sto pezzo notevole, bello, piaciuto molto. E noi abbiamo già le nostre prime domande, nel senso, medici a bordo? Medici a bordo, allora, tutte le campagne, soprattutto quelle più distanti dalla Terra, quindi diciamo il 90% delle campagne si sceva, quelle storiche tipo Antartica o tutte quelle africane, il medico a bordo è obbligatorio, nel senso che esiste sempre la figura a bordo, c'è un reparto dove vengono tenute a bordo tutta la parte di medicine e gli strumenti per intervenire. È ovvio che operando lontani dalla Terra e spesso a migliaia di chilometri dalla Terra più vicino, se succede un incidente dobbiamo essere in grado di intervenire per mettere in sicurezza o per poi eventualmente poi decidere come intervenire. Le operazioni nel Mediterraneo, sia sulla Sea Eagle che sulla Conrad, che sono le due navi che lavorano sul Mediterraneo, sulla Conrad diciamo, l'equipaggio è molto ridotto ed essendo sempre rientrando sempre in porto tutti i giorni, questa cosa, abbiamo dei medicinali ma non sempre c'è il medico, mentre sulla Sea Eagle anche quando abbiamo fatto il trasferimento il medico era presente. Quindi diciamo è molto importante quando si è in navigazione o si è lontano dalla costa, diventa sempre importante, ma non più così necessario quando l'intervento è vicino a zone già che sono diciamo coperte dalle strutture sanitarie, quelle nazionali, ecco. Ovviamente. Bene, Enrico, ultimamente, aggiungerei per fortuna, si sta parlando parecchio di Sea Shepherd. Siete stati persino ospiti a Striscia la Notizia per raccontare dell'operazione SISO, se non vado errando, la caccia dei FAD. E da qui vorrei chiederti, uno, che cos'è Sea Shepherd? Quanti sono i volontari, quanti sono i vascelli, qual è il vostro budget, com'è gestita la struttura? Mamma mia, quante domande però. Esatto, quanto costa, quanto sono le spese medie di missione, cioè, insomma, portaci un po' nell'intimo dei numeri di Sea Shepherd. Poi tra l'altro tu sei tesoriere, quindi non c'è persona più giusta a cui fare questa domanda. Allora, intanto dobbiamo fare un distinguo. Sea Shepherd è una, diciamo, una struttura che è presente in tutto il mondo. Esiste un headquarter global in Olanda e tutte le campagne, sia a terra che in mare, sono tutte campagne global. Questo significa che poi i chapter hanno magari la parte organizzativa, o spesso il campaign leader che organizza la parte strategica è del luogo o è del chapter che ospita la campagna, qualche volta, spesso. Però diciamo i fondi, la gestione della raccolta fondi e la gestione dei fondi stessi, da una parte i chapter collaborano a terra per la raccolta e fare il fundraising, ma poi come verranno impiegati lo decide Global, che li ridistribuisce sulle varie navi. Tenete presente che oggi Sea Shepherd ha più di 14 navi, quindi è la flotta privata più grande al mondo, e si parla per ogni nave di una trentina di persone di equipaggio, quindi abbiamo in mare un certo numero di volontari. E questa flotta ovviamente costa anche solo tenerla accesa, quindi immaginate navi da 50 metri, immaginate il gasolio necessario per spostare una nave del genere. Ma le navi come le comprate? Allora, le navi, normalmente la nave ci viene donata. Okay. Quindi fino ad oggi l'unica nave che abbiamo costruito con dei soldi che comunque ci sono stati donati è stata la Ocean Warrior, che è stata fatta nuova. Tutte le altre navi sono tutte navi che sono state donate da qualcuno, infatti spesso, cioè tutte anzi, portano il nome del donatore. Faccio un esempio: la Sam Simon è stata donata da Sam Simon, che è dei Bart Simpson, per intenderci, colui che disegnava i Bart Simpson. E così la Bob Ark, e così la Steve Irwin, e così la Conrad, che è quella italiana, che riporta il nome del figlio del nostro donatore che ci ha dato i soldi per comprarla. La Seagull è stata finanziata da Allianz, che è una società di assicurazioni, che ha poi scelto il nome della nave e l'ha chiamata Seagull. Quindi vengono donate, non le compriamo, o comunque le compriamo con soldi di qualcuno che ci paga questo progetto. Quindi tutti i fondi che raccogliete sono tramite donazioni? Tutti i nostri fondi sono tutti tramite donazioni, non abbiamo accordi con aziende governative, quindi sono tutti privati. Ok, e come raccogliete tutti i fondi? Nel senso, donazioni? In tanti modi. Allora, innanzitutto dipende molto dal paese. Ci sono paesi dove ci sono culture diverse. Ad esempio, Sea Shepherd all'inizio le navi le ha ricevute da donatori americani. In America ci sono stati dei mecenati, tipo Sam Simon, tipo Bob Bark, Steve Irwin, che comunque hanno donato un tot di milioni, perché sono persone molto ricche e hanno deciso di diciamo supportare la nostra campagna. Quindi abbiamo dei grossi donatori, tipo le aziende, tipo l'Allianz, che ha donato diverse centinaia di migliaia di euro, oppure poi abbiamo tutto un mondo di raccolta che è legato da tante fonti. Faccio un esempio: una fonte di raccolta importante di fondi è il nostro merchandise. Quando voi comprate merchandise sui nostri store online o agli eventi, la metà del valore del merchandise è il costo, la produzione, il trasporto e quello che è, l'altra metà va direttamente sulle nostre navi, quindi viene direttamente poi convogliato nell'attività diretta. Poi okay, abbiamo donazioni agli eventi, donazioni via banca spontanee, o c'è proprio una categoria di volontari che si chiama DAC, che è Direct Action Crew, che decidono di donare un tot di soldi, che possa essere da un euro a quello che vogliono, mensilmente. E noi quindi abbiamo un budget anche 5 per 1000, per esempio. Quest'anno abbiamo raccolto oltre 120.000 euro col 5 per 1000 in Italia. Ah, fatta 100 una donazione, qual è il rapporto tra i soldi che vanno direttamente nelle missioni e quelli per i costi di struttura, di gestione dei costi di struttura? Allora, in realtà noi abbiamo pochissime strutture, l'abbiamo sempre fatto proprio per non deviare soldi. Abbiamo pochissime persone a terra pochissimi uffici, sono veramente ridotto all'osso. Però proporzionalmente, questo non lo diciamo noi, ma lo fanno analisi, lo fanno altre aziende queste analisi, comunque proporzionalmente su un euro donato 92-94 centesimi adesso vanno ad azione diretta. Siamo sempre stati in prima, diciamo la prima della lista in questo caso come qualità di rapporto fra il donato euro e quanto usiamo invece poi per le nostre strutture e le nostre, diciamo, fra virgolette, uffici. La stessa ufficio in Italia non esiste, cioè Sicilia per Italia non ha una sede se non una sede legale. Ok, e beh, la percentuale è altissima, giusto per avere un'idea, non per parlare male degli altri, tu sai quant'è, tra virgolette, la media del mercato di questo mercato? Un rating che è abbastanza indicativo all'inverso, quindi più o meno la stessa cifra, ma esattamente all'opposto, quindi oltre 90 centesimi va per le strutture, per esempio è Greenpeace, se vogliamo dire un nome che è un nostro, diciamo, è un nome conosciuto. Quindi se io dono 10 euro a Sea Shepherd, 9,20/9,40 vanno per la missione, se dono 10 euro a Greenpeace, 9,20 vanno per i corsi di struttura di Greenpeace. Più o meno, questi sono i numeri che vengono indicati, adesso non ho gli ultimi rating, ma questo più o meno è la proporzione. Vabbè, ci prepariamo per il Greenpeace a questo punto. Beh, Greenpeace ha una struttura e fa un lavoro diverso dal nostro, quindi bisogna capire poi cosa vuol dire per azione diretta, ecco, nel tema. Bisogna capire anche chi è più efficace, effettivamente. Sì, magari siamo efficaci in modo diverso e facciamo cose in modo diverso, quindi non possiamo neanche essere comparati, probabilmente. E qual è il rapporto tra Sea Shepherd Italia e tutte le altre entità del globali? Stai parlando sempre di Sea Shepherd Global o stai parlando di altre ONG? No, sto parlando in questo caso di Sea Shepherd Global. Cioè esiste un Sea Shepherd Spagna, un Sea Shepherd Stati Uniti? Esiste sì. Allora, intanto sul nostro sito potete scaricare un bilancio sociale dove vengono indicati, diciamo, le missioni, le campagne e tutta la struttura di Sea Shepherd Global in generale. Poi si entra nel merito d'Italia e ci sono tutti i paesi esposti dove si trova un chapter italiano. Un chapter di Sea Shepherd. Se pensiamo all'Europa, Olanda, Germania, Francia, Spagna non è ancora partita, Portogallo sta partendo adesso, sta partendo Grecia, cioè alcuni paesi sono già avviati, altri si stanno avviando. Abbiamo in Sud America, abbiamo Brasile, in America ovviamente sia gli Stati Uniti che il Canada, poi abbiamo Australia, cioè ci sono tutta una serie di paesi che poi danno un grosso contributo. E le campagne, dicevi, vengono scelte a livello locale? Le campagne vengono proposte spesso dai campaign leader o comunque dai chapter locali e poi vengono approvate, quindi messe in atto da Global. Ok. Quindi se io decido di fare una campagna in Italia, propongo un progetto a Global e Global decide se destinare delle risorse, che sono volontari, navi o altre attrezzature. Ma poi, nel senso, voi pensate alla raccolta del vostro budget o è Global che ve lo gira? Cioè, con il senso, come funziona la raccolta del budget? Ricevi il 5 per 1000 italiano, abbiamo fatto 120.000 euro, ma questo qui va a Global che poi li riporta nelle varie missioni o è il budget della struttura italiana? È un po' complesso, allora ovviamente quando siamo partiti con Sea Shepherd Italia, che raccoglievamo poco, non abbiamo proposto campagne perché avremmo dovuto diciamo distogliere risorse già impegnate. Noi abbiamo un numero di risorse limitate, perché 14 navi possono sembrare tante, ma in realtà sono anche poche se vuoi pensare all'oceano, a tutto il mare che compone la terra, e quindi per non distogliere abbiamo sempre semplicemente raccolto soldi mandati a Global. Quando abbiamo iniziato a raccogliere sufficiente, o quando abbiamo iniziato a fare progetto, collaborazioni con donatori che volevano intervenire in aree nostre, abbiamo proposto il progetto, ad esempio SISO, la parte di campagna pura è finanziata da donors che abbiamo ovviamente contatti diretti in Italia o comunque collaborano con Global, ma per esempio la manutenzione, la gestione della nave, i soldi per comprarla, mantenerla, li mette Global. Poi in realtà Sea Shepherd Italia raccoglie i soldi che spende in Italia per le campagne italiane e in parte poi manda a Global come contributo, come tutte le altre chapter, quindi è misto questo tipo di attività. Molto chiaro. Cosa facciamo? Ascoltiamo un altro po' di musica? Vogliamo una canzone? Direi di sì. Vogliamo una canzone. Va bene, allora, ci penso io. Poi però parliamo di SISO, visto che l'abbiamo citata, e raccontiamo un po'. Va bene. Allora, a questo punto, canzone, Shamir on the regular, E eccola qua. You could call me pie, but really how long till the world realize? Yes, yes, I'm the best, fuck what you heard. Anything less is obviously absurd. It is the bird, more like an eagle. This is my movie, stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Set this in the back like a foul ball free throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. I come with the tip, with the blow, with the boom. And if you're in my way, there's nothing but doom. Ain't got no time for you ratchet ass goons. Just settle down, listen to my tunes. Ever since I was 8, I was attached in the mic. Wanted a guitar before I wanted a bike. Had an Apple phone, talking Fisher Price. Never seen a song, cause I'm up all night. Really, really? Really, really? You wanna talk shit, but you know that I am illy. Illy to the fullest. You can call me cancer. No multiple choice, cause I'm the only answer. Ain't got no wallet, only use your bands. You know my chick is ready, cause there's a mega dance. You wanna get at me? Stay tuned for the sequel. Seems so wrong, seems so illegal. Set this in the back like a foul ball free throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. 5'10", about a buck 20. Skinny as a rock, but still won't fuck with me. Wise ass nigga, you think I was 50, but I take your 50 after you take the slip, see? Yep, yep, you know that I go. Rieccoci in linea. Allora, innanzitutto mi voglio scusare con Mattia, ma sarebbe stata una sconfitta troppo pesante per me accettare tutte le sue canzoni, quindi questa è l'unica che ho messo di mio pugno, non me ne vorrà. L'ho scelta io. Non è vero. La proposta io, tu l'hai approvata, è diverso, molto diverso. Nulla. Chiama direzione artistica, Federico. Allora, visto che siamo sul tema... Sì. Sappiate che esiste un progetto che si chiama Sea Shepherd for Artists. Noi abbiamo tantissimi artisti che ci supportano direttamente, mi viene in mente Red Hot Chili Pepper, Aerosmith, Scansanesi, ci sono varie artistiche. Spesso fanno concerti con anche le nostre magliette, comunque ci donano soldi e ci danno supporto di visibilità. Leonardo DiCaprio è un'altra persona che collabora tanto con noi, per esempio. Ah, questo non lo sapevo. Ed è magnifico. Stavamo parlando invece dell'operazione SISO. Non abbiamo ancora parlato dell'operazione SISO. Esatto, abbiamo detto che avremmo parlato dell'operazione SISO. Mi dovete un attimo spiegare però il contesto, perché io sono ignorante in materia. Esatto. Allora, la campagna SISO si chiama, intanto si chiama SISO perché è il nome di una persona che ha partecipato al recupero di questo capodoglio che abbiamo chiamato SISO in sua memoria, perché l'ultimo giorno, finito il lavoro di preparazione delle ossa di questo animale che è morto 4 anni fa perché ha incontrato una rete derivante ed è rimasto impigliato, è un giovane capodoglio, finito il lavoro di pulizia di queste ossa, che poi adesso sono presenti e sono visitabili in un museo che si chiama MUMA, che è il Museo del Mare di Milazzo, dove è esposto tutto il corpo di questo capodoglio. Lui è morto in un incidente in moto e quindi ha dato il nome al capodoglio, al progetto SISO, e poi noi l'abbiamo usato come nella nostra campagna. Quindi la parola SISO è il nome di una persona in questo caso. La campagna SISO esiste dal 2018 nelle isole Oglie, che sono un patrimonio di biodiversità nel mare Mediterraneo, una zona di un ecosistema molto delicato che raccoglie decine di specie animali ittiche e di fauna ittica importante e che noi proteggiamo da 4 anni. La campagna è suddivisa principalmente su 2 obiettivi. Uno è le reti derivanti o spadare, che sono queste reti terrificanti che vengono messe in mare per pescare il tonno e sono illegali dagli anni 90 e che hanno un bycatch enorme, quindi uccidono un sacco di animali, tra cui tartarughe, squali, delfini e balene in questo caso. E l'altro obiettivo ovviamente sono i FAD, che sono un sistema di pesca, per come sono fatti, un sistema di pesca illegale che noi tiriamo fuori dal mare alle Oglie. Ma sono queste reti giganti, come sappiamo, e la mia domanda è: come mai è così comune trovare sistemi di pesca illegali? Nel senso, non ci sono i controlli, i rischi per chi infrange la legge sono troppo bassi? Allora dovete immaginare che l'illegalità in mare è la norma. Quasi, oltre il 50% del pescato che noi riceviamo sulle nostre tavole arriva da pesca illegale. Quindi il 50% del pescato arriva da pesca illegale. Quindi, da pesca illegale. Fantastico. Quindi da sistemi non controllati, non regolamentati, di cui quindi non conosciamo né la provenienza né il sistema di pesca impiegato. Quindi la tracciabilità ovviamente in mare è molto complessa e molto difficile, se non è impossibile, e quindi quando il pesce viene pescato con sistemi illegali, poi viene portato sul mercato, scaricato sul mercato come pesca legale, e quindi si confonde e non riesce più poi a determinare da dove arriva. Questa cosa avviene in tutti gli oceani, in tutti i mari del mondo. Con la stessa percentuale? Allora, nel Mediterraneo è ancora più alta, si parla di oltre di quasi 60%, negli altri mari si parla del 40-50%. L'acronimo è IUU in inglese o INN per l'italiano, che è non regolamentata e non controllata. Dovete immaginare, faccio un esempio proprio stupido per capirlo: se la quota di tonni nel Mediterraneo è sotto controllo, basta che le navi che vogliono pescare tonno si spostino in aree non controllate, quindi fuori dalle acque europee, e buttano le reti e pescano il tonno in una zona dove non è controllato. Questo tipo di pesca ovviamente è illegale e poi va ovviamente a riempire quelli che sono i mercati di pesca, perché poi il tonno non lo distingui più, quello preso dentro o preso fuori. Ma non ci sono dei limiti? Nel senso, se io so che devo pescare 100 kg di tonno all'anno, sparo, se sul mercato mi trovo 200 kg di tonno, mi dico, ci sono 100 kg di troppo, dovrebbero fermarmi. Sì, però diciamo il controllo della quota è un controllo che viene fatto nei paesi europei, e quindi se poi io pesco questo tonno e lo vendo a paesi dove queste regole non ci sono, di fatto sto alimentando una pesca che non è legale per noi, ma magari è legale per qualcun altro. Chiaro. Quindi il tonno viene ingrassato e poi spedito in Giappone o per il sushi, è il pesce più pagato al mondo in questo momento. Stiamo parlando che un tonno può essere quotato a centinaia di migliaia di euro, e quindi è chiaro che dietro c'è un business enorme, e l'illegalità è un business difficile da fermare proprio perché muove questi tipi di capitale. Un sacco di soldi, chiaro, chiaro. Però l'illegalità può essere legata alla stagionalità, cioè io pesco un pesce che è in fermo biologico, faccio un esempio: se io vado a Siracusa quando c'è il fermo biologico dei ricci e mi vado a mangiare i ricci perché al mercato li trovo, sto comprando sicuramente un pesce pescato in maniera illegale, perché è pescato in un periodo che è illegale. Se poi uso dei sistemi di pesca che di per sé sono illegali, tipo uso una spadara che è illegale per pescare dei tonni, di conseguenza quei tonni sono pescati in maniera illegale. Se uso dei FAD per pescare delle lampughe, la lampuga è un pesce legale, ma le pesco con un sistema illegale, quindi quel pescato diventa illegale anche lui. In quel caso è proprio un'illegalità che è quasi difficile da determinare, perché dovresti cogliere la pesca nell'atto in cui c'è il sistema di pesca collegato. C'è da dire una cosa: comunque noi siamo abbastanza ignoranti, la stagionalità del pesce non la conosciamo. Io comincio ad addentrarmi in questa cosa, però effettivamente non la conosco. sarebbe importante. Non la conosci? Certo, certo, però diciamo viene pubblicata, è ufficializzata, i pescatori la conoscono, e quindi se io a maggio o a marzo, aprile, se faccio l'esempio dei ricci, vado a mangiarmi il riccio, sono sicuro che quella pesca... E infatti normalmente vengono pescate quando sono in riproduzione, perché sono ricchi di uova, e quindi è ovvio che quel tipo di pescato è illegale. Dobbiamo metterci un attimo più di impegno, Fedoro caro, dobbiamo capire come funziona mica solo la stagionalità delle carote, anche la stagionalità del riccio, del calamaro, eccetera eccetera. Ma io penso un buon esercizio. Un buon esercizio, ecco, intanto un buon esercizio è non mangiare pesce, ma un altro buon esercizio è leggere le etichette e guardare la provenienza e capire che tipo di pesce è. Ma tanto se uno su due è pescato illegale, nel senso etichetta dice menzogna, quindi è meglio evitarlo di mangiare, basta. Non si mangia pesce. Beh, questo è un buon punto, però così un po' disfattista, quindi... Beh, però faccio un altro esempio magari un po' più umano. Se io sono in vacanza alle Eolie con la mia barca a vela e mi si avvicina il pescatore che mi vende una cernia che pesa mezzo chilo, quella taglia è illegale perché la pesca non è prevedibile sotto un certo peso, e quindi io faccio parte di una, diciamo, finanzio un'attività illegale, certo. E questo avviene regolarmente, ovviamente. Bene, allora, mentre... Male. Abbiamo parlato di missioni, ma a questo punto io vorrei ripartire da quello che è il vostro motto. Se non è un vero e proprio motto, sicuramente una firma che viene spesso usata e viene sempre molto spesso associata al vostro fondatore, possiamo dire, Capitan Paul Watson, che dice «If ocean dies, we die». Cosa significa questa cosa? In che modo gli oceani possono morire e perché sono così importanti gli oceani per la vita sulla Terra? Beh, per un motivo molto semplice. Il mare, magari non si sa tanto questa cosa, ma il mare si occupa di produrre la metà dell'aria che respiriamo. Quindi vuol dire che ogni volta che noi facciamo un respiro, ogni due respiri uno ce lo dona il mare e uno ce lo donano le piante, sempre con la fotosintesi ovviamente. In mare esistono delle alghe che con la fotosintesi si preoccupano di produrre ossigeno e di stoccare l'anidride carbonica. Questo processo che avviene nelle piante avviene anche nel mare ed è alimentato ed è creato da organismi che vivono negli oceani. Di conseguenza, se io distruggo gli equilibri o le biodiversità e riduco quindi questa capacità, come sta succedendo per esempio adesso con l'acidificazione degli oceani, la produzione di questo plancton, di fitoplancton, si riduce, e quindi io in qualche modo toglierò al mare la capacità di pulire l'aria e di produrre aria nuova per noi, e soprattutto di stoccare quello che è la CO2 che a noi serve che venga messa via. Quindi diciamo che la vita degli oceani, scusami, è molto legata anche ai temi di riscaldamento globale, perché se non è più in grado l'oceano di assorbire CO2, questa CO2 va a fare da ovviamente gas serra, e quindi è un discorso ovviamente legato a filo doppio. Sì, ovviamente. Immaginate per esempio un'acidificazione del mare porta per esempio alle conchiglie la difficoltà di produrre la struttura è fatta proprio con carbonato che viene sottratto e viene scisso in questo processo e che viene in qualche modo stoccato in queste strutture che sono le conchiglie, che sono cose bellissime, che poi vanno a finire in fondo al mare e fanno parte dell'habitat in cui si muovono, diciamo, le specie ittiche. Faccio un altro esempio magari che è un po' più facile da capire. Se io ci metto migliaia di anni, come fanno le piante, a stoccare questo elemento negativo in fondo al mare, e poi passo con delle reti a strascico per pescare i gamberi, tutto quello che faccio è sollevare questo sedimento e riportarlo in circolo, esattamente come succede quando si bruciano le foreste. Quindi quello che è stato stoccato sul manto e sulla prima parte del terreno viene rilasciato nell'aria, e quindi tutto quel lavoro che è stato fatto in migliaia di anni viene ributtato in circolo. Quindi oltre a distruggere un habitat, rimetto in circolo tutto un lavoro svolto che invece serviva per farci sopravvivere su questo pianeta. Quindi per esempio la specie a strascico è altamente inquinante perché rilascia la CO2 che è stata stoccata in migliaia di anni sul fondale marino. Wow, In Italia non so quanti siano, mi sembra più di 7.000 le navi che fanno pesca a strascico. Ed è legale? È legale. È legale? Assolutamente sì. Non so che dire a questo punto, perché effettivamente è una prospettiva che non mi aspettavo, soprattutto sulla pesca a strascico. Cioè, non pensavo all'impatto diretto della pesca a strascico sul clima, però effettivamente più si chiacchiera di queste cose più si scopre che tutto effettivamente ha un impatto. E tutto è collegato, quindi tutti gli ecosistemi sono collegati, tutti gli organismi lavorano insieme per convivere in questo ambiente. È ovvio che se l'uomo entra a gamba tesa e rovina questi ecosistemi, togliendo per esempio dei predatori, faccio un altro esempio, noi uccidiamo sul pianeta più di 100 milioni di squali all'anno. 100 milioni di squali all'anno sono 275.000 squali al giorno. Sì, questi sono degli predatori apex, quindi al top della catena alimentare. È come quando andavamo nella foresta o nella savana e uccidevamo i leoni, per intenderci. Tutto l'equilibrio delle varie specie in quell'area viene inficiato dal fatto che tu togli il predatore principale che tiene sotto controllo la popolazione degli altri animali, e quindi tutti gli altri animali non sono più in equilibrio fra di loro. È come abbiamo fatto nelle nostre foreste togliendo il lupo, no? Poi abbiamo il problema che non abbiamo un antagonista che ferma la rene, non so, il cervo piuttosto che il cinghiale. Poi abbiamo il problema di questi animali che si vanno in sovrannumero e dobbiamo abbatterli perché non siamo in grado di fare il lavoro che faceva un animale che noi abbiamo ovviamente eliminato. 275.000 squali al giorno. 275.000 squali, sì, le stime sono fra i 70 e i 120 milioni di squali all'anno. Male. Io sono allibito. Anch'io. Quindi direi che è il momento di ascoltare un po' di musica. Anticipiamo così la canzone. C'erano un sacco di domande così. Prima. Però. Okay. Gli squali, tra l'altro, mi stanno simpatici, no? C'è questa cosa dello squalo Joe, no? Sto film che li ha fatti sembrare cattivi, brutti e mangiatori di uomini. Poi in effetti non sono mica così cattivi, no, Enrico? Beh, se teniamo presente che di attacchi di squali mortali sul pianeta si parla di 3, 5, 7 all'anno, noi ne uccidiamo 100 milioni, è chiaro che sono un po' in svantaggio, ecco. C'è sempre questa prospettiva strana con i numeri, no? Cioè uno dice un numero, uno ne dice un altro, squali, vaccini, sono delle cose strane che succedono con i numeri. Vabbè, soprassediamo, sì. Comunque sì, dovremmo tutti imparare a leggere i numeri un pochino meglio e non guardare. Sì, no, dovremmo capire cosa serve questo tipo di massacro, che cosa alimenta e fare delle scelte per evitarlo, ecco. Perché è ovvio che poi queste cose da qualche parte vanno. L'Italia è il quarto paese al mondo per consumo di squali, e quindi vuol dire, se questa cosa non la comprendiamo... No, in che senso? Scusami, no, aspetta, noi in Italia mangiamo squali? Aspetta Federico, prima la canzone e poi torniamo su questo punto perché mi sembrava fondamentale. questa canzone non me la gusterò. Non me la gusterò neanch'io, però la facciamo partire, quindi non dico chi è, vediamo com'è. Down again across the yellow moon. Enrico, quello che mi dicevi fuori onda è molto interessante. Lo vogliamo ripetere per tutti i nostri ascoltatori? Stavamo parlando un attimo degli squali e dei numeri. E quanti squali ci mangiamo? Sì, no, diciamo che una delle cause principali del massacro degli squali si chiama shark finning ed è per alimentare un mercato che è orientale, dove il consumo della pinna di squalo è legata a uno status symbol. Cioè il mangiare una zuppa con dentro una pinna di squalo era uno dei piatti principali dell'imperatore, perché effettivamente a quei tempi pescare uno squalo era un'operazione non così semplice. Perché lo dovevi pescare con le mani? Più o meno. E quindi diciamo era una forma di potere diciamo avere a tavola una zuppa con dentro. Tra l'altro stiamo parlando di una pinna di squalo, quindi una cosa che è una cartilagine che non mangi neanche, quindi era solo un problema di la zuppa di per sé è una zuppa a base di brodo di pollo, quindi in realtà quello che ti mangia è il brodo di pollo. Per abbellire questo brodo di pollo c'è dentro una bella pinna. L'uccisione di questi squali perché adesso sta cambiando? Perché per i pescherecci ovviamente la cosa più facile, se vuoi risparmiare spazio a bordo delle navi, è quella di prendere uno squalo, portarlo a bordo, tagliargli le pinne, quindi quella dorsale e quelle caudali o quella della coda, e poi ributtare in mare lo squalo spesso ancora vivo, privo di pinne. Intanto lo squalo morirà soffocato in fondo al mare perché non è più in grado di nuotare, quindi stai uccidendo un animale impedendogli di sopravvivere, buttandolo ancora vivo dopo che gli hai tagliato parte del corpo. In maniera atroce. E in questo modo puoi stoccare all'interno di una stiva di una nave migliaia e migliaia di pinne. Nel 2013 l'Europa, per cercare di ridurre questo tipo di massacro, ha obbligato i pescherecci a riportare a terra le pinne collegate ai corpi. Ma in realtà anche questo tipo di intervento non ha impedito la pesca degli squali con questi numeri, perché di fatto una volta che sono sbarcati è difficile capire da dove arrivano e dove sono stati pescati. Oggi esiste un tentativo di raccolta firme per impedire totalmente il commercio delle pinne di squali in tutta Europa. Questo cambierebbe tanto, perché la pesca avviene un po' in tutti i mari, gran parte della pesca avviene tra l'altro da pescherecci europei, perché il più grande pescatore di squali è una società di pesca spagnola, e poi queste pinne vengono spedite soprattutto a Hong Kong e comunque in Cina e in questi paesi dove vengono mangiate in questo modo, oppure vengono usate queste cartilagini e questi squali per fare altri tipi di consumi, tipo, non so, le famosi fegato di merluzzo. Non è detto che sia olio di fegato di merluzzo, ma spesso sono olio di fegato di squali, o vengono usate in tanti medicinali. Quindi l'altro tentativo è quello di capire che alcuni medicinali che noi usiamo per proteggere le nostre ossa, per aiutarci nel nostro corpo, arrivano dall'utilizzo e dall'uccisione di questi animali in questo modo assolutamente brutale. E quindi consiglio a tutti di andare a vedere, il sito si chiama stopfinning.org e sottoscrivere la petizione. Dobbiamo arrivare a 1 milione, finisce fra poco, per poter mettere delle nuove leggi, delle nuove normative che impediscano questi tipi di numeri. Stiamo parlando di tonnellate di pinne. Vuoi ridire anche i numeri degli squali dal 2000? Beh, tenete presente che quasi il 60% degli squali ormai sono stati ridotti diciamo a pericolo di estinzione, anche perché le pinne vengono prese da qualsiasi tipo di squale. Abbiamo pinne che arrivano da squali balena, quindi immaginate uno squalo balena lungo 10 metri che gli vengono tagliate le 3 pinne e poi viene buttato vivo in mare o viene abbandonato su una spiaggia. E questo avviene per i mako, avviene per anche gli squali martello, ma anche i cuccioli. Una volta che poi la pinna viene messa in un sacchetto ce ne possono essere migliaia, e vengono vendute. Una zuppa a base di pinna di squalo costa fra i 60 e gli 80 euro a ciotola, e quindi questo è poi il motivo per cui questo sistema di pesca è difficile fermarlo, ecco. Ci chiedono in chat qual è il rapporto tra il pesce mangiato, consumato, quindi venduto, e quello che invece viene buttato. Attualmente, diciamo, le stime indicano che i bycatch delle vari sistemi di pesca, sia quelli legali che illegali, oscilli fra il 40 e il 70%. Cosa significa? Che quando io butto una rete, per esempio una rete a circuizione per raccogliere tonni, all'interno di quella rete, oltre al tonni, ci sono tutti gli altri animali. E se li contiamo, ogni 6 o 7 animali che vengono pescati su 10 sono animali che poi vengono ribottati in mare perché non sono il target di quella pesca. Quindi il 70% viene buttato. Sì, più o meno questa è la cifra del bycatch, dal 60, 70, 40, dipende un po' dai numeri, anche perché non abbiamo numeri su queste cose. Tutte le volte che facciamo i controlli, tutte le volte che facciamo, saliamo a bordo delle navi che fanno questo tipo di pesca con le nostre... Allora, Sea Shepherd Italia ha una serie di campagne che servono proprio per fermare questo tipo di pesca. Cosa succede? Noi diamo la nostra risorsa nave e volontari e la diamo a disposizione di governi che non hanno le risorse e i mezzi per poter fare i controlli nelle loro acque territoriali. Quando facciamo i fermi delle navi che stanno pescando lì, scopriamo nelle loro stive queste situazioni. Quindi in realtà sono numeri sempre dedotti da quello che noi troviamo, ma non abbiamo assolutamente idea di quello che avviene se non è documentato e non è regolamentato. Quindi queste navi che dichiarano mentre pescano di raccogliere il 3% di pesca non target, poi quando andiamo a verificarlo di persona o realmente non è così. Quindi i numeri sono tutti molto aleatori e tutti prendere li abbiamo, diciamo, sono sempre sottostimati, quindi la situazione è molto più grave di quella che noi siamo in grado di valutare. Mentre dicevamo prima della canzone che ci avresti detto perché in Italia siamo tra i maggiori consumatori di squali. Noi siamo il quarto consumatore e acquisto di squali sul pianeta. I primi due sono Giappone e Cina e noi siamo il quarto, quindi noi siamo il più grande mercato di acquisto di squali. Siamo al quarto posto come consumo di squalo sulle nostre quando mangiamo pesce. E sono un po' dappertutto lo squalo. Il DNA di squalo è stato trovato in alimenti di ogni tipo. Quindi sono state fatte delle ricerche, ci sono dei documentari molto belli, tipo Sharkwater, dove il regista, e che tra l'altro è morto recentemente, è andato a fare analisi su vari alimenti che trovava nei supermercati vicino a casa sua, quindi stiamo parlando in America, e il DNA di squali è stato trovato in alimenti per animali, soprattutto per cani e gatti, ma anche in tutto ciò che sono confezioni miste di pesce, quindi fritto misto, o spesso, ad esempio per quanto riguarda l'Italia, se noi andiamo ai banchi del pesce fresco, spesso la carne di squalo non la distingue ed è venduta come o pesce spada o tonno, perché è difficilmente distinguibile una volta che è fatta a trancio, a meno che tu non conosca bene, diciamo, la morfologia e la specie ittica. Quindi non lo sappiamo che lo facciamo, ma in realtà è così. E aumenterà, perché gli altri animali sono già sovrasfruttati e quindi gli squali sono una risorsa. Chiaro, chiaro. E abbiamo un'altra domanda ai nostri ascoltatori e ci porta fuori finalmente dai nostri poveri amati squali e ci chiedono qual è il rapporto con le popolazioni, diciamo, indigene, autoctone, quelle che vivono nei luoghi in cui vengono create le riserve e quindi qual è anche il vostro rapporto con le popolazioni magari rurali che vivono in zone appunto dove sono create la riserva. È vietato anche loro il diciamo perpetuare la loro pesca tra virgolette sostenibile o no? Nel senso, ma diciamo la 14esima direttiva per la salvaguardia dei mari prevede, per quanto riguarda l'ONU, prevede che noi rendiamo quasi il 30% dell'area mare del pianeta area marina protetta. Questo è il desiderato. Tenete presente che nel 2020 dovevamo raggiungere la quota del 20%. Siamo nel 2021 in Italia, le aree marine protette sulla carta coprono meno del 9% del mare mediterraneo. In realtà per area marina protetta, se intendiamo anche quelle che veramente proteggiamo, cioè dove facciamo veramente i controlli, è ridotta a meno dell'1%. Quindi siamo molto lontani a quello che diciamo gli scienziati dichiarano necessario per dare un habitat e dare la possibilità alle popolazioni ittiche di riprendersi. Tenete presente che nel Mediterraneo, che è il mare più sovrasfruttato sul pianeta, quasi tutte le specie ittiche sono sovrasfruttate, quindi non sono in grado di riprendersi rispetto al nostro prelievo. Quindi se non riusciamo a creare delle zone in cui gli animali riescono a riprodursi e a vivere in tranquillità, non avremo più pesce. Okay? Questa è una realtà oggi di fatto ed è il motivo per cui lo Stato italiano e tutti gli Stati europei e quindi tutti quelli del mondo stanno tentando di formare rapidamente aree marine protette. E c'è una proiezione per quando è prevista, tra virgolette, l'estinzione del pesce nel nostro mare? O? Allora, noi, gli scienziati prevedono nel 2050, se continuiamo così, non ci sarà più pesce negli oceani e nei mari. In realtà, secondo me, la situazione sarà molto prima. Questo potrebbe cambiare se noi siamo in grado nel frattempo di produrre aree marine protette. L'area marina protetta è un'area molto delicata, perché ovviamente viene identificata e viene creata laddove ci sono le caratteristiche morfologiche per rendere quell'area diciamo preziosa alla riproduzione. È ovvio che quelle aree, una volta che sono interdette, le aree marine protette normalmente sono organizzate in fasce. Normalmente c'è una fascia A, una fascia B, una fascia C. Nelle fasce A l'uomo non può proprio neanche navigare. Nelle fasce B e nelle fasce C ci sono delle regolamentazioni tale per cui chi ha le autorizzazioni o chi ha i permessi può andare a pescare. E le popolazioni autoctone sarebbero in questo caso autorizzate, e alcune aree marine protette che sono state già create in Italia hanno dimostrato che questo processo virtuoso produce pesce laddove invece pesce non ce n'era più. Quindi in realtà i pescatori, che spesso nelle aree dove non ci sono ancora aree protette sono un po' il freno culturale per creare queste aree, di fatto laddove poi queste aree sono state generate e create sono quelli che diventano i primi protettori di quelle aree, perché ne capiscono l'utilità economica. È chiaro che l'area marina protetta non viene fatta perché abbiamo voglia di salvare il mare, non è che gli uomini hanno questa scelta etica, lo fanno perché se vogliamo mangiare pesce dobbiamo fare qualcosa perché il pesce ci sia, quindi il motivo è sempre un motivo economico. Chiaro. E quindi la costruzione di un'area marina protetta attraversa tutta una serie di problematiche che sono socioculturali e che fanno sì che gli attori che sono in luogo, ognuno di loro tiri verso di sé le parti che gli interessano di più. Si desiderano fare una serie di aree protette in Italia. È chiaro che questi procedimenti attraversano tutta una serie di controlli, diciamo di confronti fra le autorità del luogo e ovviamente il Ministero dell'Ambiente, che poi spinge questo tipo di processi. In parte hai già anche risposto, ma questa domanda te la devo fare: come sta il nostro mare e quali sono i rischi maggiori che corre? Il nostro mare, proprio perché è un mare chiuso, è di per sé un mare molto delicato, perché tutto l'ecosistema è un ecosistema chiuso all'interno di un bacino, e quindi tutto quello che noi facciamo all'interno di questo bacino colpisce direttamente tutti gli animali e tutta la fauna che vive e la flora che vive in questo luogo. È chiaro che avendo un'area di mare così chiusa come il Mediterraneo, se pensiamo soltanto allo scarico di plastiche che noi produciamo nel nostro Mediterraneo, il nostro mare è già un mare sovrainquinato di plastica, quindi anche il pesce, che non è in grado ovviamente di metabolizzare la plastica ma che la mangia tutti i giorni, basta tirare fuori un pesce dal mare, analizzarlo e si scoprirà che all'interno delle proprie carni c'è plastica. Quindi in realtà noi mangiamo un prodotto che mangia a sua volta il prodotto di scarto della nostra vita. Quindi noi produciamo plastica, la riversiamo nel mare, il pesce mangia la plastica e poi noi ci rimangiamo il pesce, e questa cosa entra nel nostro corpo. Gli scienziati hanno fatto una stima: mediamente un essere umano oggi nel mondo moderno, quindi in Europa si può dire che lo sia, mangia l'equivalente di una tessera, tipo di un bancomat, sì, al giorno, di plastica. Io però a questo punto un paio di domandine ce le ho per te, Enrico, visto che te ne abbiamo fatte poche questa sera. Abbiamo fatto saltare la scaletta, abbiamo ascoltato poca musica, ma fa lo stesso, ci siamo divertiti, ce la siamo goduti, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ascolta, proprio due cose per chiudere, ci mancano pochi minuti. Una che riguarda noi, cioè cosa possiamo fare tutti personalmente? Io sono una persona fondamentalmente pigra, però qualcosina sicuramente la potrò fare, no? Per migliorare la situazione. Certo, posso farti un esempio? Anche due, allora, se vuoi. Allora, se noi immaginiamo, noi conosciamo il Mediterraneo perché è un'area dove viviamo, quindi tutti noi abbiamo fatto il bagno nel mare Mediterraneo, e però viviamo magari a Milano. Ora, se immaginate che tutti i giorni in tutte le città e in tutti i ristoranti e in tutte le catene alimentari e in tutti i supermercati di Europa tutti i giorni debba arrivare pesce fresco, e lo prendiamo dal Mediterraneo, non c'è bisogno di un grande scienziato o di analisi matematiche per capire che questo prelievo è insostenibile. Non è sostenibile nel tempo, magari è sostenibile oggi su una specie ittica che in un anno, due anni faremo scomparire, poi passeremo un'altra finché finiranno tutte le specie ittiche. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è: quando usciamo a cena e quando consumiamo pesce, farci una domanda, ma questo sushi che io vado a mangiare tutti i giovedì e tutti i martedì a Milano è veramente una cena che per me è necessaria? È una cena che io posso sostenere? Perché se noi mettessimo nel costo di quel piatto sushi non il gambero o i 50 grammi di gambero che noi ci stiamo mangiando, ma l'impatto ambientale della specie, della pesca a strascico e della, diciamo, necessaria per tirare fuori 50 grammi di gamberi, perché per esempio io sto facendo l'esempio dei gamberi perché nel Mediterraneo l'animale che crea più bycatch in assoluto attualmente è la pesca dei gamberi. Per mangiare un chilo di gamberi noi uccidiamo 25 kg di altre specie animali che non mangiamo. Quindi se io dovessi mettere nel tuo piatto 50 grammi di gambero e ti dovessi far pagare anche gli altri 24 kg che non mangi, probabilmente quel pesce tu non saresti in grado di sostenere come spesa e quindi tu non potresti mangiarlo, almeno non con questa frequenza. Perché noi invece siamo in grado di mangiare e pensiamo che il pesce sia infinito? Perché i sussidi alla pesca, che sono le nostre tasse, quindi i soldi che noi diamo allo Stato, vanno a sostituire la mancata rendita di questa pesca. Quindi se io devo impiegare un peschereccio con 4 persone al giorno e lo vedo tutti i giorni perché io vivo alle Eolie, quindi davanti a me, davanti a casa mia ci sono 3 pescherecci tutte l'estate da maggio fino a novembre che tutti i giorni pescano gamberi e tirano fuori un chilo al giorno di gamberi, quella pesca non è sostenibile se io dovessi chiedere ai pescatori di non ricevere soldi dallo Stato, perché loro non potrebbero pagarsi neanche la benzina con quello che guadagnano dai gamberi. Loro in realtà si fanno dare i sussidi, gli diamo i soldi per comprarsi le barche, gli diamo i soldi per pagargli le reti e in più gli paghiamo la differenza, tanto quanto succede come con la carne. E quindi noi pensiamo che questo gambero ci costi poco, ma perché il costo è nascosto da qualche altra parte e perché al costo del recupero degli ambienti non l'abbiamo ancora messo a contabilità. Il giorno che dovremo creare le aree marine protette per ripristinare la popolazione e i fondali, il tuo cavolo piatto di gamberi ti costerà migliaia di euro e tu smetterai di mangiare i gamberi. I buoni e cari sunken cost. Prima o poi verranno in superficie anche all loro. You can eat. Ecco, sono delle cose, non è possibile, sono animali selvatici. Stiamo passando, l'ultima cosa che stiamo facendo adesso è cercare di allevare animali e pesci per poterceli mangiare liberamente. L'allevamento di pesca dei pesci è una delle cose più inquinanti sul pianeta e il pesce che tu mangi allevato è uno degli alimenti più inquinati che tu possa mettere nel tuo corpo. Basta vedere un documentario sui salmoni e tu il giorno dopo non mangi più salmone. Quindi è questo quello che devi fare, devi dire: ma io ne ho proprio bisogno, che cos'è questa cosa che sto mangiando, da dove arriva, che cosa c'è lì dentro, fa bene al mio corpo? Se ti rispondi a queste domande vedrai che smetti di mangiare un sacco di cose. Go vegan a questo punto per tutti quanti, però io ho l'ultima domanda. Fedor, mi fai chiudere con l'ultima domanda? Poi io ho una curiosità. È l'ultima domanda. La penultima domanda. Va bene, allora io faccio la penultima domanda. Enrico, io sono impallinato da questa cosa, voglio capire con tutte le persone che parlo qual è la loro immagine del futuro, quindi te lo faccio a questo punto anche a te. Qual è la tua immagine del futuro? Cosa ci riserva? Allora, io credo che l'uomo è in una situazione in cui, e l'ha sempre fatto anche nel passato, è una situazione di crisi, l'uomo trova sempre delle risorse e un modo di uscire quando la sua sopravvivenza è messa a rischio e abbiamo le capacità e l'intelligenza per poter fare delle scelte. Non so se la società civile è pronta per quelle scelte e quindi, siccome queste scelte dovrebbero farle in teoria i governi e i politici, i quali cercano il consenso fra la gente comune, è un po' difficile spiegare alla gente comune quali sono i problemi se poi la gente comune non li accetta. Quindi non vedo una grande difficoltà a realizzare delle cose che abbiamo capito che sono necessarie, ma che per poi farle abbiamo bisogno di spostare delle risorse e spiegare perché investiamo milioni di euro, che ne so, per fare un certo tipo di area marina protetta, laddove invece le persone del luogo non capiscono la necessità. È anche vero che chi vive in quelle aree e vede il mare tutti i giorni, come ho fatto io negli ultimi 40 anni, ha visto il mare svuotarsi e quindi è molto pronto a capire che o troviamo una soluzione o anche loro smetteranno di fare il loro lavoro, perché non potremo dare sussidi all'infinito. Non esiste nessun tipo di sistema di pesca sul pianeta oggi che sia sostenibile a livello economico senza i sussidi. Se noi quei sussidi li investissimo per fare aree marine protette invece di darle ai pescatori per sostenere una pesca che non è economicamente sostenibile, i pescatori dovrebbero cambiare lavoro e andare a lavorare nelle aree marine protette. Questa cosa qua è una cosa culturale che va spiegata. Quindi se io vado alle Isole Oglie e al pescatore che si lamenta e dice ma io c'ho famiglia e devo dare da mangiare ai miei figli, gli dico bene, è vero, ma se tu la tua barca invece di usarla per pescare la usi per portare fuori i turisti, farli vedere le balene e i delfini che torneranno a vivere qua perché io faccio un'area marina protetta, o i subacquei, allora lui capisce che sopravvive e cambia lavoro. Ma dobbiamo attraversare questo percorso, che è un percorso culturale di conoscenza, perché il pescatore magari vive lì da generazione e dice ma io ho sempre pescato, per quale motivo devo adeguarmi a delle regole che mi imponi tu, governo, che non vivi qua? E questo purtroppo non è facile da spiegare. Bene, speriamo di aver fatto in qualche modo la nostra piccolissima parte. Cosa possiamo fare per sostenervi? La cosa più facile? Allora, ci sono vari modi per sostenerci. Se la cosa più bella sarebbe diventare volontari di Sea Shepherd, quindi venire a bordo delle nostre navi e aiutarci a terra. Magari. Se non potete fare... Dico magari, sarebbe bellissimo, ma la vedo... Ci sono un sacco di attività che si possono fare da casa, quindi ci sono un sacco di lavori che noi abbiamo bisogno, traduzioni, media, progetti scuole, quindi andare nelle scuole, pulizie spiagge, pulizie fondali, se uno non vuole salire sulle navi. Oppure si può dare know-how, conoscenza, materiali, ci sono aziende che ci danno le manutenzioni, le riparazioni, pezzi di ricambio, oppure, ed è questo il gruppo più importante, sono i supporter che ci donano soldi, e quindi fare una donazione o 5 per 1000 o un DAC, quindi un RIBA bancario, un ripetitivo mensile, e a questo punto in qualche modo sostenerci con una parte economica. Sicuramente il sostegno è quello anche di cercare di capire quello che facciamo e farlo diventare una parte, un percorso cognitivo e un percorso evolutivo nella nostra conoscenza personale, e quindi farci delle domande e crescere noi, quindi cambiare il mondo in cui ci troviamo, perché decidere di cambiare cosa si mangia è una cosa che possiamo decidere veramente nell'arco di pochi minuti. Cioè io posso decidere di mangiare una pizza vegetale piuttosto che mangiare un sushi a base di pesce, lo decido io. Ed è una scelta che possiamo fare tutti se capiamo a cosa serve. E visto che io e te, Fede, dobbiamo ancora andare a cena a questo punto... parla per te, sono vegetariano a 4 anni. E l'ultima cosa che volevo chiederti... vabbè, diamo a questo punto, diamo il sito. Il sito è seashepherd.it. Trovate tutte le news e tutte le campagne. Trovate anche come sostenerci, come diventare volontari, form online... e potete seguire tutte le news e tutte le attività che noi svolgiamo in tempo reale. Ottimo. L'ultima curiosità veramente prima di chiudere, sono già arrivati i nostri cari amici di Salad Days. Io so che tutti i volontari di Sea Shepherd sono vegani, ma magari sbaglio, mi è stato detto da qualcuno di loro che non sono autorizzati nemmeno a fumare. Come mai? Allora, in realtà nessuno di noi è obbligato ad essere vegano, quindi non è vero che tutti i volontari sono vegani, anzi la percentuale, se dovessi dirvi una cifra, è molto più vicina a vegetariani, però diciamo i vegani sono un numero abbastanza ridotto. Okay. Ma è vero che a bordo delle nostre navi, in qualsiasi campagna, quindi in qualsiasi attività di Sea Shepherd, la dieta è vegana, quindi se io sono onnivoro ma salgo a bordo di una nave, oltre a parlare inglese, per tutto il tempo che sarò a bordo della nave avrò una dieta totalmente vegana. A bordo è vietato consumare alcolici e fumare per il semplice fatto che questa regola è una regola di sicurezza legata al fatto che io sono su una nave in mezzo al mare, carica di gasolio, in un ambiente dove se mi ubriaco metto in pericolo di sicurezza i miei compagni, e se fumo una sigaretta e la butto in un posto sbagliato creo potenzialmente un incendio e quindi un pericolo a tutti i miei compagni. Chiaro. Bene. Enrico, noi ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo e speriamo magari di averti ancora per degli aggiornamenti sulle campagne o per fare delle informazioni. Grazie mille. Quando volete, grazie a voi per l'ospitalità e buon mare a tutti. Grazie per la chiacchierata. Ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Ciao Enrico. Grazie. Mi raccomando, rimanete qua che abbiamo Salad Days tra poco. Finisce la canzone, che è spettacolare, e poi ci sono i nostri amici di Salad Days. Ciao ciao! Just so cold.